che dici, amor mio, è quello che senti, è solo tuo. Le mani, i tuoi occhi non parlano mai, la voce nel cuore lo sai, le cose che sogni, amor mio, la pace che provi, tutto è tuo, le voci, respiri, non sono i tuoi, ma i caldi silenzi che hai. Io vedo tutto e tutto guarda te, mi sto parlando. Fin quando le stelle